música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Esiste un lato affilato e tagliente della sorellanza. Sorellanza è un termine ormai desueto, passato, antico. Di sorellanza si parlava ai tempi in cui le donne volevano far credere all'umanità che esistesse una sorta di solidarietà di genere che rendesse diverse le aggregazioni femminili da quelle maschili, da quelle miste. Le donne fra loro si aiutano, le donne tra loro si vogliono bene, le donne sono tenere, dolci, le donne fanno parte di una fetta dell'umanità che, se potesse avere sempre il totale indiscriminato potere, gestirebbe un mondo senza contrasti, senza guerre, senza discriminazioni. Noi ci siamo sempre presi volentieri e ci ha sempre fatto anche un po' piacere la parte dei cattivi, dei perversi, di coloro che seminano discordia e zizzania, di coloro che rappresentano il lato oscuro di ogni realtà. Ma oggi che a bocce ferme si può parlare un pochino più di serenità, di rapporti tra esseri umani, senza necessariamente porre prima la differenza che fa la qualità, osserviamo che in realtà si può dire tranquillamente che tra donne ci si scanni molto spesso e molto volentieri. Anzi, gli scannamenti di femmine contro femmine sono molto raffinati, sono insistenti, sono degli stillicidi che possono durare anni e anni. L'odio e la discriminazione fra esseri umani di sesso maschile, soprattutto negli ambienti di lavoro, si riduce in un desiderio di annientamento istantaneo, rapido, veloce, o anche se con sadismo, comunque tende all'eliminazione dell'avversario. L'impressione è che le battaglie tra donne, soprattutto negli ambienti di lavoro, soprattutto legate a quell'odioso fenomeno chiamato mobbing, si svolgano in maniera molto più sottilmente, sono quasi delle interminabili e lancinanti torture cinesi. Ora, a supporto di questa mia folle e patibile di ogni ritorsione chiacchierata, c'è un pezzo uscito ieri su Repubblica che fa riferimento a una serie di numeri, una serie di cifre riportate da stampa straniera, ma che vedremo di supportare con persone che hanno cognizione di questo argomento, che dice che in ambiente di lavoro il mobbing rosa comincia a essere un fenomeno molto evidente. Il 70% delle donne lavoratrici sarebbero vessate dai loro superiori. Quindi la domanda che vi faccio questa mattina, e vi prego rispondiate con grande sincerità, qualunque sia la condizione anagrafica che vi contraddistingue, sia se abbiate voi ricordi di tempi lontani in cui il rapporto tra colleghe era amareggiato da una sorta di rivalità e di sottile desiderio di far soffrire la propria collega, o se voi siate donne perfettamente inserite nel mondo del lavoro, siete state capo o avete subito lo stillicidio di una vostra capa. 800 24 0024. Volevo dire, a proposito della misoginia, che esiste, ma la misoginia esiste non soltanto dagli uomini verso le donne, ma secondo me tra le donne è molto più pericoloso, è molto più subdolo e molto più pesante e difficile da gestire che il primo caso. Questa era una nostra ascoltatrice che in tempi passati sul tema della misoginia ci aveva già avanzato l'idea che in realtà esistesse una molto poco trattata, anche perché viene tenuta come un retaggio da tenere nascosto, putibondo, che contraddice tutti i luoghi comuni e tutte le affermazioni e tutte le effettive, oggettive conquiste che hanno compiuto le donne in questi ultimi anni nel campo dell'affrancamento, dalle limitazioni stereotipate nel campo del lavoro, nel campo della loro espressione, al di là del fatto che siano femmine, siano sottoposte ad alcune necessità rispetto agli uomini di provvedere ai figli, di dover comunque avere un iter fisiologico con delle determinate e indiscutibili limitazioni. Il fatto che esista un certificato moto di odio tra le donne nel campo del lavoro è probabilmente l'argomento di cui si parla meno volentieri. Mi dispiace, stavolta Gabriella ha veramente passato il limite. Io non me ne starò a guardare il suo matrimonio. Julie dice che esagero. Voi non pensate che esageri, no? Sì, assolutamente no. Tantino. Senti, anche se Gabriella avesse torto, e lo ha, ha totalmente, orrendamente torto, boicotteresti il suo matrimonio? Ha detto che io potrei far rimpiangere a Mike il coma. Io credo che volesse dire, e di nuovo vorrei che si fosse espressa con un po' più di tatto, che il matrimonio è imprevedibile, non lo sappiamo mai prima come sarà. Non difendere quella peste egocentrica. Ruba il matrimonio di Susan e si aspetta che rimangano amiche. Divorzia da Carlos e pretende che nessun altro lo frequenti. Non ho mai conosciuto nessuna disonesta ed egoista come lei. Questo era solo uno scampolo di discorsi fra donne, erano le casalinghe disperate che naturalmente parlando tra loro e parlando di amiche non presenti hanno tutte le corde possibili dell'acidità e della volontà di far male, anche se soltanto a parole, rispetto a una rappresentante del loro genere. Sembrerà alle generazioni più recenti un discorso totalmente ovvio, ma chi come me è stato allevato e cresciuto in questa sorta di sensazione che ci fosse una differenza nei comportamenti tra donne, nei comportamenti che provengono da donne, nella gestione femminile, comunque fa probabilmente una certa impressione sentirlo dire e affermare in maniera così aperta. Io ieri posi la domanda agli ascoltatori in Facebook su quanto loro avessero esperienza di questo lato tagliente della sorellanza. Vi cito qualche messaggio. Dice: una realtà è il cosiddetto mobbing orizzontale, dice Giovanna, è quello che vede donne contro donne nella gran parte dei casi. Gli uomini si astengono o si riservano la palla per il mobbing verticale, quindi viene definito la nostra ascoltatrice un mobbing orizzontale. Rossella dice: purtroppo tra sorellanza acida e soffitto di cristallo quante opportunità buttate. Sarebbe così semplice riconoscere talento dove c'è. La mente brillante al femminile fa sempre paura. L'integrità ancora di più. Questo è un discorso applicabile naturalmente anche a qualsiasi altro tipo di genere. Però in effetti è vero, in ambienti altamente competitivi le donne sanno trovare spesso armi di combattimento nei confronti dei loro simili molto raffinate, soprattutto che riescono a cogliere molto più in profondo di quanto siamo capaci di fare noi rozzi, approssimativi e violenti uomini. Lavoravo appunto in comune e quindi appena entrata ho avuto subito l'ostilità delle colleghe che mi hanno cominciato, diciamo, a togliermi parte del lavoro che mi veniva fatto, non mi completavano mai l'insegnamento delle mie attività e mi lasciavano completamente sbandata. Dovevo arrangiarmi sempre da sola. Io, siccome ero separata dal marito, e quindi il mio nuovo compagno lavorava lì in comune dove lavoravo anche io, e quindi loro pensavano che io magari fossi stata assunta tramite l'intercessione del mio nuovo compagno, cosa assolutamente non vera, ecco perché questo ci tengo a precisarlo. Però naturalmente loro pensavano questo, per cui io ero guardata malissimo, quindi si trovavano fra di loro, ma mangiavano, facevano la pausa al caffè, non mi rivolgevano la parola, chiudevano la porta dove ero io. Questo è un esempio di un'ascoltatrice che fa pubblica dichiarazione aperta e senza reticenze e pudori di vigliacchi comportamenti di donne nei confronti di donne, quando sarebbe logico pensare che esista una sorta di solidarietà, di protezione, dato che comunque una donna è sempre un elemento meno difeso e meno difendibile in un ambiente di lavoro dove le linee di potere viaggiano normalmente nella maggior parte dei casi per linea maschile. Anna da Perugia, buongiorno Anna. Buongiorno. Anna. Buongiorno, sono Anna. Se mi fanno la cortesia di aprire le telefonate e non tenerle così smozzicate, mi fanno una grande cortesia chi ha questa possibilità. Trovo molto fastidioso che la persona cominci a parlare col microfono chiuso. Tanto i nostri ascoltatori non è che emettono rumori molesti mentre stanno in attesa. Quindi siate gentili, chiunque abbia questa responsabilità, di tenermeli aperti. Grazie. Prego, Anna. Buongiorno, sono Anna. Senta, io ho 40 anni e sono sempre stata femminista, non ho vissuto bene il 68 e quant'altro, ma sono sempre stata femminista e ho voluto sempre molto bene sia alle mie coetanee sia alle donne più giovani, più anziane, più belle di me. solo che c'è un particolare, o siamo in una vicissitudine particolare, perché ci sono dei branchi di donne che sono assetate, probabilmente gli scoppia l'ormone femminile. Tanto ma dove l'ha vista questa cosa, signora, dei branchi di donne? Dei branchi, esatto. Ma dove l'ha letto? L'ho sentito in una trasmissione televisiva giorni fa, cioè di donne, di ragazzette più che mai, sui 16-17 anni. A me mi hanno sempre copiato, perché io sono molto femminile nel vestire, nel mettermi, e non dimostro neanche la mia età. Maria, no. Mi permetta un attimo. Sì, Maria, un attimo. Sì, scusa. Dividiamo i problemi. Dunque, lei ha letto una notizia che l'ha spaventata di queste band di teppiste ragazzine, esatto, che copiano, imitano i maschi. Ma è una, esatto, diciamo. Sì, esatto. Quella è una. È un ricalco di usanze metropolitane, periferiche, che vengono da altri paesi. È una cosa generica, ormai anche i maschi hanno paura, i maschietti, diciamo, della loro età, hanno paura di loro, perché sono spaventati. Ah, beh, questo è un altro problema, che gli uomini abbiano paura delle donne è un fenomeno vecchio come l'umanità. Ma esatto, quello su cui volevo concentrarmi, ecco, è del vigliacco comportarsi in maniera cattiva fra donne negli ambienti lavoro. Sì, esatto, io voglio dire questo. Sì, lo dica. È vigliacco. Sì. Beh, parla un po' troppo lentamente. Il vigliacco è brutto, proprio brutto. Vabbè, abbiamo capito, signora. Non mi sembra che lei abbia molti argomenti su questo tema. Mi fa piacere averla sentita. Mario da Roma. Mario, buongiorno. Buongiorno. Sì, la sto ascoltando. Certo. Perfetto. Niente, io sono così testimone di vita di questo fenomeno, che ho alla fine collocato nel rapporto mediato dal sesso tra uomo e donna, e in questo caso la donna la vince, nonostante... Ma parli della testimonianza, vada all'esperienza diretta, quella che mi interessa di più. Direttamente quella di mobbing tra donne, micidiale, terribile, dove non ci sono limiti, non ci sono regole. Mi faccia l'esempio, a cosa si arriva? Si arriva a poter dire dell'avversario, della persona che si vuole mettere in discussione, di tutto, di più, in maniera inverosimile, fino ad inventarsi le cose e a utilizzare qualunque argomento pur di distruggere un'amica, una persona alla quale si ha il problema di doverla sopraffare. Nel suo ambiente di lavoro ha visto questo? Certo che sì. È bastato che la persona, la donna, che era in qualche modo in posizione tale da poter dare un minimo di giudizio, anche un piccolissimo riferimento di valutazione dell'altra, è bastato che ponesse una questione, ma non in termini diretti, in termini così vaghi che chi doveva decidere ha deciso diversamente, bruciando carriere, eliminando, discriminando persone anche nell'assunzione. Perché la persona che ha posto la questione in termini di rivalsa era una donna. Ecco, qual è il punto, mi scusi, il punto di caduta? Si giudica in base all'aspetto fisico? Azzardo un'ipotesi, una collega è particolarmente curata nell'aspetto fisico, è anche benedetta dalla natura, quindi viene etichettata dalle colleghe come una di facili costumi, e questo quindi potrebbe creare dei problemi nel chiacchiericcio o nella valutazione anche della sua rendita professionale. Beh, secondo me è anche una disponibilità della donna a poter creare delle condizioni oggettive di prevalenza rispetto all'uomo, rispetto alle situazioni in cui va a operare. Cioè, una donna purtroppo utilizza le sue capacità fisiche, direi anche. Ma questo è in dubbio, non vogliamo negarlo. Va bene, questo è chiaro, andiamo avanti. Giovanna, finalmente una donna che parla di donne. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo dire la mia opinione sia da lavoratrice dipendente. che è da datore di lavoro. Allora, è verissimo innanzitutto che c'è questo mobbing fra colleghe, anche mobbing orizzontale, perché comunque la competizione, tutte le donne, tutte, anche come tutti gli uomini, ognuno cerca di tenersi il suo posto di lavoro. E qual è la differenza, però? Non è vero. La differenza sì, sì, ma... è che le donne sono molto più aggressive. Ti sto dicendo da una donna che comunque ha fatto anche mobbing alle colleghe. Cioè, lei cosa è arrivata a fare? Cosa è arrivata a fare alle sue colleghe? Cosa è arrivata a fare alle sue colleghe? Ma niente, niente. Difendere con i denti comunque il lavoro che pertineva a me. Difenderlo con i denti. Quello non è fare mobbing. Sì, è anche fare mobbing, perché comunque quando tu escludi delle colleghe, quando non dai consigli e di veditela da te, quello è un modo di fare mobbing, non aggressivissimo, ma è sempre un modo di fare mobbing. Allora andiamo avanti, qual è la punta estrema possibile che lei tollera in un rapporto di eliminazione di una collega fastidiosa? No, io non vorrei eliminare mai nessuno, perché poi non dico fisica, ma toglierla dal proprio spazio vitale. Sì, la collega vero, aggressiva fuori completamente, non parlargli, non darle consigli, se sei in grado veditela da sola, perché c'è chi si è fatto da solo, anch'io l'ho subito, perché io appena entrata veditela da sola e sono andata avanti con i miei piedi. Ho subito anche mobbing dai superiori, perché io mi sono sentita dire: no, hai 27 anni, l'aumento non te lo diamo, puoi essere bravissima ma devi fare gavetta come hanno fatto tutti. E non mi sembra giusto. Diciamo che io forse mi sbaglierò, ho avuto esperienze diverse, ma del mobbing ho un'idea lievemente più estrema. Il mobbing sì, è un'operazione. Ci sono anche livelli più estremi. Poi mi sono ritrovata anche io ho un'attività, ho dei dipendenti, e mi sono ritrovata anche, non dico a far mobbing, però comunque a far stare le persone al suo posto, perché tante volte i datori di lavoro hanno delle responsabilità. Vabbè, questa è normale tecnica di gestione, è chiaro che chi gestisce ha responsabilità di risorse umane. No, perché io tante volte sento mobbing, non gli parlo alla collega, non gli offro il caffè. Allora, queste sono cose che comunque tutti i giorni, anche per la strada, si possono vedere. Cioè, mobbing è un'idea molto più grossolana, come dice lei, molto più forte di bistrattare una persona. Ecco, non resti la porta. Sì, resti in ascolto, Giovanna, perché avendo in ascolto, abbiamo tenuto fino adesso in ascolto una persona che studia e dà senso alla sua esistenza professionale proprio sul tema del mobbing. Professor Antonio Vento, buongiorno. Buongiorno. È psichiatra, criminologo della Sapienza di Roma, presidente dell'Osservatorio Nazionale Mobbing. Lei era tra le persone intervistate in questa pagina di Repubblica sul mobbing rosa. Riguardo quello che diceva la nostra ascoltatrice, esiste una fattispecie femminile nelle vessazioni volontarie e crudeli in ambiente di lavoro? Beh, guardi, intanto, come giustamente diceva lei, c'è un po' di confusione nella così definizione di mobbing. Il mobbing sarebbe giusto dare questo concetto di mobbing. Il mobbing è un fenomeno che, per chi non lo sa, richiede due protocolli. Uno, che è quello del disagio ambientale, con lo stress, con delle forme di aggressività che vengono messe in atto proprio per uno scopo preciso, che è quello di eliminare o di emarginare un soggetto o gruppi di soggetti dall'occupazione che portano avanti, che hanno. Esiste una sorta di non scritta regola da chi gestisce risorse umane che in momenti come quelli che stiamo attraversando, in cui è necessario alleggerire, diciamo, la forza lavoro, si possono usare tecniche del genere? Tecniche del genere sono state usate. Io ricordo molto la Bencuneo faceva delle indagini precise su grandi aziende, di cui non faccio il nome, per vedere chi aveva la capacità di produrre e chi invece era scarsamente produttiva, e poi venivano eliminate con tecniche che venivano messe in atto con interventi sia verticali che orizzontali a seconda delle strategie che venivano scelte. Beh, diciamo che un consulente dia consulenze sull'efficienza del personale è lecito, esatto. Ma non credo che possa dare, almeno apparentemente e chiaramente, consigli su come poi eliminarli o scoraggiarli. No, non è che questi sono processi che si fanno in maniera molto subdola. Certo, è chiaro che non sono programmazioni aperte. Il datore di lavoro sa chi produce e sa chi non produce. Poi quando vuole eliminare una persona perché viene ritenuta da loro, dalla direzione negativa per la produzione, per vari motivi, o perché vogliono sostituirla con qualcos'altro, si trova poi il modo di farla fuori. Col demansionamento, con l'emarginazione, si mette con la diffamazione talvolta pure, si mette da parte e quindi viene emarginata. Però, per poi il mobbing, la definizione del mobbing, si richiede l'altro protocollo, quello sanitario. Senta, professore, possiamo interromperci soltanto un istante, devo mandare le informazioni della borsa, poi riprendiamo l'interessante discorso del secondo protocollo per cui il mobbing viene applicato nel pieno della sua efficienza. Stiamo parlando del cosiddetto mobbing orizzontale, stiamo parlando delle donne che sul luogo di lavoro sembrano essere particolarmente accanite nel gestire le loro rivalità e le loro invidie. Leggo qualche messaggio che è arrivato su Facebook. Silvia, che lavora in ambiente universitario, dice: dirigo un gruppo di 5 donne e 3 uomini, sono tutti più giovani di me, ma mi sembra che a volte essere a capo di una piccola società matriarcale, in gergo casa famiglia, in cui mi sforzo di mantenere il più possibile una certa armonia. Questa ricerca dell'equilibrio vedo molto di più in gruppi in cui, come nel mio caso, il capo è una donna. Il mobbing femminile sicuramente esiste anche nel mondo accademico, ma quasi sempre sono nei casi in cui si sta un rapporto preferenziale tra il capo maschio, la donna e lo staff. Ecco, questa è una fattispecie. La preferita del capo, la cocca del capo, la presunta amante del capo, diventa una sorta di zarina, un elemento intollerabile, quindi nascono attorno a lei comunque varie tensioni, le alleate della donna del capo, l'harem delle vestali della donna del capo, presunta donna del capo, fedele del capo, e quelle che naturalmente a lei stanno antipatiche. Daniela, ci sono passata, perché pensate che mi sia licenziata? La mia titolare era detta Ape Regina, non sopportava scollatura audace delle sue ragazze, truccato, troppo simpatiche e carine come la sottoscritta, quindi ha fatto di tutto per umiliarmi, offendermi e far scappare chiunque intralciasse il suo cammino. Roberto dice: senza uomini idioti che si lasciano abbindolare dalle sole forme, io sono convinto che il mondo andrebbe molto molto meglio. Lavoro nel settore finanziario, le porcate più grosse, l'assunzione dei rischi più assurdi, i comportamenti più pericolosi sono la maggior parte dei casi imputabili all'universo maschile. 800 24 00 24 è il numero per intervenire e dare il vostro contributo, come sta facendo in questo momento Patrizia dalla provincia di Trapani. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho un'esperienza di questo tipo. Avevo 27 anni e cominciai a lavorare per il quotidiano Il Tempo di Roma, però nella redazione di Latina. E ebbi la capacità, la fortuna, non so che dire, di far triplicare le copie nel giro di un mese. E venni chiamata dalla direzione generale, che mi aumentò spontaneamente, cosa che mai, lo stipendio. E rimasi chiaramente soddisfatta, felice di questa mia esperienza, e ho creduto che questa esperienza potesse essere una cosa normale, che si potesse ripetere nel tempo. Quando poi purtroppo per motivi di famiglia mi sono dovuta trasferire in Sicilia e ho cominciato a lavorare in televisione, sono diventata direttore responsabile di un'importante televisione provinciale, uh-huh. E le cose cambiarono, perché qui appena cominciai a parlare di mafia e dei rapporti tra la politica e la mafia, di come il potere si comporta, mi fecero un mobbing pazzesco all'interno della televisione fino a licenziarmi. Col fatto di essere donna però non c'entrava molto, diciamo, la sua era una testimonianza di battaglia civile che non era tollerata. Sì, sì. Questo è vero, però c'è anche da aggiungere che nonostante questo, quando lavoravo a Latina nella redazione del Tempo, i colleghi maschi erano gentili, anzi disponibili, affettuosi, forse perché erano anche più grandi e quindi ti vedevano magari come una figlia. Invece qui, che siamo tutti della stessa età, quando ho cominciato a lavorare qui avevo 31 anni, poi 32, che cosa è accaduto? È accaduto invece che qui purtroppo i maschi ti vedevano come rivale e facevano del tutto, anzi non tolleravano neanche il fatto che tu fossi il direttore responsabile, e si vedevano scavalcati da questa figura femminile che pensavano: ma l'istituzione, L'istituzione, dica. Comunque, l'istituzione prevale sul genere di chi la incarni, e dovevano farsi una ragione del fatto, probabilmente a loro dava un po' fastidio sia una donna a comandarli. Io so che a certe latitudini e in certe condizioni mentali non è ben tollerato da un uomo essere comandato da una donna. Sì, o però avere il mio rapporto non era di comando, perché io ho sempre creato una collaborazione, un team. Sì, un ma signora, tanto non ci prendiamo in giro. Sì, ma il direttore comanda. Se non comanda, non è un direttore. No, bisogna vedere che si intende per comandare. Se comandare significa dare degli ordini dovuti è una cosa, se comandare significa prevaricare è un'altra cosa. Io non prevaricare significa avere il diritto dell'ultima parola, signora. Sì, non esiste democrazia parola, nella gestione. Questo dava fastidio, ha ragione. Vabbè, è chiaro, questo è normale. A me invece preferisco avere capidonne, mi trovo molto meglio. Trovo una maggiore armonia, esatto, di avere un capodonna. Sì, ognuno c'ha il suo modo. Effettivamente si può creare quella complicità che... Ma no, complicità, mica nel senso che esiste no, che... No, non è complicità sessuale. Trovo che le donne... Trovo che le donne non abbiano... Le spiego qual è. Trovo che le donne non abbiano quel senso di competizione tipica degli uomini negli ambienti di lavoro. Però è più leale. Ma non è più leale, se vogliono ti segano le gambe anche peggio. Ma nei confronti di un uomo una donna è più tollerante. Capisco, sì, la differenza di essere gestita da una donna. Grazie Patrizia, grazie. Professor Antonio Vento, psichiatra e criminologo della Sapienza di Roma, presidente dell'Osservatorio Nazionale Mobbing. Vogliamo vedere se in effetti riusciamo a circoscrivere questa fattispecie del mobbing o della vessazione tra donne. Esistono delle cifre certe, reali, o è soltanto un'ipotesi e un chiacchiericcio come se ne facciamo tanti? Beh, intanto volevo finire di... Sì, devo dire la seconda fattispecie. Perché, ripeto, si sta parlando in maniera impropria di mobbing. Io dalle telefonate che sento adesso noto che ci sia più un livello sociologico che sanitario o scientifico. Evidentemente chi non lo conosce ne parla così, è fortunato, devo dire. Lo so, purtroppo però poi le cose vengono confuse, allora ci vediamo, io con l'Osservatorio Nazionale Mobbing mi sento arrivare centinaia di telefonate di persone scontente, che con, ma la maggior parte sì, devo dire che sono donne, quindi se già vuole una percentuale direi che almeno il 70% che telefona e che rivendica una situazione di disagio, che rivendica, cioè che presenta una situazione ai sintomi di un disagio concreto, diciamo. Ecco, però non hanno quel protocollo sanitario di cui stavo parlando. Ecco, esattamente, cioè, definiamo, il protocollo sanitario è un reale accertato... Per almeno sei mesi devono avere dei disturbi che vanno dall'ansia, alla depressione, disturbi cardiocircolatori, disturbi dermatologici, gastrointestinali e così via, che però possono essere, devono assolutamente anzi essere messe in rapporto di causalità, cioè tra le vessazioni e le pressioni che vengono subite nell'azienda o nel posto di lavoro, e la sanità curata e seguita da un sanitario, da un medico, da un ospedale, da qualcuno, documentate, perché se si va poi in causa per mobbing si rischia proprio di essere, intanto di perderla, e poi per un problema di giusta causa possono essere pure licenziati. Quindi fare così le cose in maniera confusionaria può essere controproducente per la stessa persona che viene mobbizzata. Quindi vediamo se riesco a tradurre bene. Chi è convinto di subire un concreto mobbing e ne ha i sintomi, conviene che vada subito a farsi vedere da un medico e si faccia fare un certificato. Bravo. Perché ci vogliono 6 mesi di prova, se no sono chiacchiere. 6 mesi di documentazione, esatto. E con testi pure, per esempio, in causa di lavoro si richiede poi l'MMPI, che è il test Minnesota, quello della personalità, che io ho proposto alle forze sociali di farlo fare in forma molto rispettando la privacy, nel momento in cui uno viene assunto, così poi se c'è un disagio viene confrontato con quello di partenza e si vede se ci sono state delle evoluzioni o delle involuzioni sanitarie. Beh, questo è il quadro generale. Nello specifico, questo fatto particolareggiato in questa pagina di Repubblica di una particolare emergenza di rapporti vessatori di donne verso donne. Lei ha qualche cifra concreta? Sì, io le stavo dicendo che le donne che telefonano hanno una rivendicazione da fare nei confronti di altre donne al 70%, diciamo. Capisce? Quindi esiste in maniera considerevole, non è una no, il fenomeno è vasto perché come tutte le cose in Italia, quando c'è un messaggio magari pure culturale, sociologico, come quello che sta succedendo adesso con il problema di voler individuare il disagio che le donne hanno all'interno dei posti di lavoro, è chiaro che aumentano le telefonate delle donne rispetto a quelle dei maschi, perché le donne hanno assunto nella società, e io in questo parlerei e sono stato il primo che l'ha fatto circa 2 anni fa e sto facendo uno studio su questo, di mobbing sociale. Il mobbing sociale dove, come diceva Repubblica, inserisco un capitolo dedicato alle donne. Le donne hanno avuto la capacità, la giusta diciamo capacità di salire nei gradini. E logicamente, più salendo più ci si rende conto che quando soffia il vento soffia forte, più sei in alto più il vento soffia forte, frase indimenticabile che mi disse un giorno il mio avvocato, che doveva difendermi in qualcosa del genere. Melog 2.0. Allora io ho detto no, che non vedevo la differenza tra due cinture effettivamente identiche. Avresti dovuto vedere come mi ha fulminato. Ti giuro, pensavo che le si sciogliesse la pelle dal viso. Non c'è niente da ridere, eh? E non è contenta se tutti accanto a lei non sono in preda al panico, alla nausea e tentano il suicidio. Ma non posso farmi scombinare la vita da Miranda, non posso. Calma, tigre. Oh, buongiorno, Miranda. Chiamami Isaac. Non vedo la mia colazione, ci sono le mie uova, le uova! Mi scusi! Va a prendere le Polaroid del servizio sulla Lansavine. Fa controllare i freni della macchina. Dov'è quel foglio di carta che avevo in mano ieri mattina? Alle bambine servono le nuove tavole da surf di bodyboard. Marilyn Strip Miranda, direttrice della grande rivista di moda, è un esempio lampante di un harem al femminile attorno a una figura di despota, di grande illuminata, di detentrice di un potere, di un sapere superiore, di fronte alle quali tremavano soltanto donne, capacissima di distruggerle, di annientarle o anche dare loro l'illusione che potessero contare qualcosa per far loro poi rimarcare in maniera più crudele la loro pochezza. Roberto da Bologna, buongiorno, ex dirigente di una grossa multinazionale. Lei nella gestione delle sue risorse umane sa che mettere donne assieme può essere pericoloso. Sì, infatti. Buongiorno Gianluca. Sì, il problema è che io mi occupo di risorse umane e nell'azienda che si occupa soprattutto anche di vendite, mettere insieme un gruppo di donne è molto più competitivo che nel gruppo che mettere insieme un gruppo di uomini, nel senso che risulta difficile gestire per il semplice motivo che questa competizione esula un po' da quelli che sono poi i tatticismi classici del lavoro. Esula perché va sul sociale, va sul personale, capito? Quindi non è quella competizione che ogni dirigente si augura di avere nei propri dipendenti che porta a migliorare il prodotto o a produrre di più, quella competizione che in realtà porta alla distruzione della tenuta del gruppo di lavoro? Esatto, esatto, cioè della serie, premesso che la clientela apprezza di più oggi come oggi la venditrice donna piuttosto che la venditrice uomo, che il venditore uomo, perché la donna ha un tratto diverso, ha un modo di approccio diverso e diciamo che anche un odore migliore, diciamo la verità. Eccolo. E soprattutto questa mia azienda si occupa di prodotti finanziari e con le fregature che sono arrivate negli ultimi tempi hanno comunque, la donna ispira più fiducia, no? Proprio per questo motivo in un'azienda come sì, lo la dice nostra... Guardi, c'è un bellissimo passaggio di Curzio Malaparte, Maledetti Toscani, che loda le donne senesi, diceva che nelle battaglie intestine che svolgevano appunto fra signorie le donne senesi erano meravigliose perché hanno una tale delicatezza e dolcezza in combattimento nel tagliare la gola che i nemici preferivano farsi sgozzare da una delicata fanciulla senese che da un rude combattente. Mi sembra che il senso sia un po' lo stesso. Certo, esattamente, il ragionamento è esatto, le donne stanno ottenendo maggiori risultati, ma il prezzo che pagano loro personalmente, e le posso assicurare che svolgo colloqui quasi quotidiani, a livello di stress è violentissimo, specialmente quando il capo di questi gruppi, diciamo, di vendita è una donna. Non so se il professore o un ascoltatore prima parlava dell'effetto ape regina, no? Ecco, sì, un ascoltatore, sì. Ecco, in quel caso diventa l'azienda l'ape regina, è lei che decide qual è la più brava, qual è la meno brava, e partono delle lotte intestine che sono veramente dirompenti. Non parlerei di mobbing, sono d'accordo con il professore, il mobbing è una cosa un pochettino più strutturata, più legalizzata. Qui è un semplice e gratuito massacro tra donne che si ammazzano per prevalere nel formicaio o nell'alveare, questo è il discorso. Grazie Roberto. Grazie Roberto, buon viaggio, in bocca al lupo. Elena da Roma, Elena buongiorno. Buongiorno, la mia è una vecchia storia di 30 anni fa, sono arrivata dall'estero con un diploma di infermiera professionale in una clinica privata dove quasi tutti lavoravano diciamo senza uno straccio di studi, mi hanno messa in un nuovo reparto da sola come responsabile e la suora che lì era capo reparto prima di me non mi ha detto neanche dove si trovavano le chiavi degli armadietti, dove c'erano gli strumenti adatti. Ma lo faceva sicuramente per il suo bene, così lei trovava la via della perfezione dandosi da fare a trovare le chiavi dell'armadietto. Quindi sia benedetta la suora che l'ha così duramente formata. Grazie Elena per la sua testimonianza. Dantan Amerigo da provincia, no, Ameriga, dalla provincia di Milano, Ameriga. Buongiorno. Ecco la Meriga, sì. Io vediamo di riportare un po' a questo millennio la sua esperienza. Che secondo me nell'ambiente di lavoro la donna vive un'esperienza più totalizzante. Gli uomini, secondo me, la sì, questa è una un vecchia come... storia. Scusi, no, sì. Se permette. Sì, sì. Le donne in amore hanno un'esperienza più totalizzante. Le donne nella famiglia hanno un'esperienza più totalizzante. Questa cosa che le donne siano totalizzanti sempre. Io va vorrei bene. Riscriverci un pochino sopra qualcosa, perché sì, sembra che sì. Noi siamo solo superficiali e brutali e le donne abbiano questa sorta di afflato. No, l'impressione che ho avuto io, nell'ambiente di lavoro gli uomini entrano in competizione sapendo di farlo, come in una gara sportiva, poi magari vanno al bar a bersi qualcosa. Le donne amano far finta che non sia così, ecco. Vabbè, no, chiaro. Giocano su tutti i piani, su quello personale, anche dopo finita la competizione di lavoro, alimentano, perlomeno per come l'ho vista io, insomma. Sono infami allo stato estremo, scusi, non mollano la vita come il gatto quando prende l'uccellino, ci mette 6 giorni per scannarlo, noi facciamo prima. Secondo me, perlomeno da quello che ho visto io, c'è questa forse dovuto al fatto che questo ruolo della donna nel mondo del lavoro è elaborato da pochi anni, anche da minor tempo, anche nella cultura, la donna come elemento sociale, per cui viene combattuta, non so, da istinti di solidarietà, istinti di aggressività, no, non ha chiaro qual è il suo ruolo. Parlo in generale. Ma così? Poi diciamo perché in generale in ogni agglomerato umano la donna sa che altre donne sono pericolose rivali proprio per un possesso, e va anche oltre quello delle chiavi di comando in un posto di lavoro, ma è il possesso generale, è la centralità rispetto all'ambiente maschile che gira attorno, e questo probabilmente non aiuta certo, ma istiga ad essere più crudeli e più spietate nei confronti delle proprie colleghe. Grazie Meriga. Alda, chiudiamo con Alda. Alda, provincia di Varese. Chiudo Pronto? La radio. Sì. Pronto? Sì. Buongiorno. L'ascolto. senta, io lavoro in un ambiente ospedaliero, giusto, e la vita non è molto bella. Proprio adesso perché... le suore non ci sono più, però... No, le suore non ci sono, però le dico che per apparire più brave e anche a volte sgamarsi nel lavoro, fra donne, se c'è una caposala donna, ovviamente l'altra, il livello inferiore, fa di tutto, fa la spia, fa di tutto per poter apparire o sgamarsi anche il lavoro, glielo lascia alla spalle dell'altra. E questa qui, ovviamente, abbiamo la caposala più quella che primeggia fra tutte perché entra nelle grazie. Se ma l'abbiamo già detto, è la logica dell'ape regina, dell'alveare, tutti certo, vogliono stare... Se è una donna, se invece è un uomo... O ovviamente ti gira intorno e magari gli permetti di farti metterti la mano per dire sulla spalla, per non dire altri posti. No, no, lo dica pure dove la mano. Sul seno o anche sul fondo schiena. Io ho denunciato, lasciando, dando questo permesso si hanno vantaggio. Io ho denunciato e quando ho denunciato questa persona mi ha pagato, cioè mi ha risarcito del danno. Bene, ovviamente non voglio far del male, è andato via per la penale, è andato avanti da sola, però gli dico che è una vita invivibile. Io quando ho un dottore che mi ha detto, ma sa che lei è veramente bella, 40 anni, parlo 10 anni fa, ho detto, ma scusi, se non me lo diceva lei non lo sapevo. Beh, io per 8-10 anni non sono riuscita a stare in un posto, questo qui quando sapeva dove era mi spostava. Vabbè, è diventato direttore generale. Qua passiamo dal mobbing a... Sì, ho capito. Sì. Devo chiudere. Tramonti, ha messo, per esempio, il Tramonti, ha messo Brunetta, scusi. Ha sì, messo Tremonti, la nuova legge che c'è l'incentivazione ai pubblici. Sa chi sì. prenderà questa incentivazione? Sì. Chi leccherà di più o alla caposala o al caposala o al dottore? Questa, ovviamente, faranno sì, uno scritto... che quella ovviamente sarà più brava. Ho capito, signora, si ferma un attimo, devo chiudere la trasmissione, sia gentile, capisco che il suo microcosmo per lei rappresenta l'universo, ma interpretare le leggi dello Stato in chiave di rapporto fra caposale e dottore che mette la mano sul sedere mi sembra un po' esagerato, ma se questo è il suo mondo è giusto che lei la veda così. Alla prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.